Marchigio! Ciao Mari! È fuggito! Che facendo c'è? Sempre facendo sta! Ciao dottore, non mi senti? Io la sentendo! Voi la sentendo io! Sono lì, no, sono al monte! Lo so che sei al monte! C'è il catenò che è stato più forte. Ah, addirittura. Vabbè, dai. Già funziona ancora. Sì, non hanno quello. Certo, scegli. Stavo chiamando Giovanni, ma non risponde. Adesso è in campagna. A Rossendi, alla faccia nostra. Non penso che sia in campagna. No. No, addirittura no. Poi, poi dalla figlia, boh, o qualcuno in casa. Boh, non lo so. Sicuramente è così, o è dalla figlia o è in campagna. Poi a casa sua c'è gente. Io ero da sabato. Sei appena arrivato. Ah, sabato oggi, carta. Carta dove bombe dei gozi. Sicuro sì, dove è sabato. Ah, boh, penso di sì. Ah, ecco, pensi. Ma come mai è stata quest'ora a to? Non avete... Sicuramente non avete tempo, dai, prima. Oh, io ero fuori e sono rientrato adesso. Ah, ecco. Io eri fuori. Ah, giocavito. Io male di solito c'è sempre. Ma anche là ho fatto chiamata. Vabbè, questo qua non ce l'ho. Ce l'ho lì a coso, a casa di Maria. Oh, vado a mettere il bacchiglio subito. E poi me vado lì alla terroccia, c'è Geppe Magia. Io riuso così, cioè, e domani ce ne sono tre complici, mi pare. Tre? Così mi ha detto bacchiglio, che ci sono tre complici domani. Care. Io sono a casa, sto installando un sistema operativo, un computer. Ciao Mari! Ehi, Carpa, la massa per i bumatti, Carpa, mi stai facendo di tutto. Buonasera! E che facendo c'hai? No, niente, sono seduto e mi sono rientrato adesso. Ero in campagna, così che eccoci qua. Hai visto che era in campagna? Te l'ho letto. Sì, ma sono stato presto, quindi. Buonasera Gio Maria. Buonasera signor. Infatti ho rientrato adesso, eccomi qua, Così che. Ho chiamato oggi da giù da campagna, ma non mi sentivo lì, non c'era nessuno, così che ho detto ma senz'altro li sentirò stasera, e così è stato. Me Luca c'era. No, che sono arrivato a casa verso le non mi ricordare, verso le 6:30, così, ho acceso ma non c'era nessuno. E a chi sono ancora bagnati di lui? E oggi abbiamo fatto la pecora, così che abbiamo un po' ritardato, Certo. Sono ancora i copieni, grazie. E io, vabbè, poi sono andato all'ospedale, ma non mi hanno ricoverato, perché a quanto pare non è urgente, però penso lunedì o martedì mi chiamano e mi fanno l'operazione. Urgente, è chiaro che prima fanno quelli urgenti, capito? E vabbè, ma sai cosa da poco, no? Sì, dei calcoli sono dalle varie giovani. Diciamo che siccome ci lavora un amico, no? Sono incaginati tra di loro, è troppo lavoro, troppe operazioni e a quanto ho capito poco personale. Ma fanno in fretta, mi bombardano tutto lui. Secondo come sono, bombardano tutto e fanno in fretta, capito? Già lo so. Vabbè. Avanti, Tore, riprendi. E quindi Lo fanno martedì l'operazione. Mi avviseranno loro. Comunque dopo la mezzanotte non posso mangiare niente, lo metto a TG1. Cos'è? Lo metti a TG1 o lo metti? Ho detto che dopo la mezzanotte devo stare a TG1, no a TG1, no, TG1. Lo danno io! Ha compreso Giovanni? Ehi, ha capito, ma dove si è accaduto tua madre lui? Ehi, si sente? Sì, ero mette, si sente, te lo grido. Arrivi tutto bello spampanato qua, diglielo so. Sei agito, si gira. Sei tanto la del Zendivirio che arrivi a durante il parato. Ma cosa hai messo l'antenna fuori? Ehi, a casa sì, ce l'ho sulla finestra. Hai fatto bene, hai fatto benissimo, quindi già va bene. No, a casa c'è la mantova sul tetto, la mantova 5. Si prendete la Giammarì. Infatti c'è la mantova piazzata sul tetto, dove adesso. È vero. Ti sei accorto che con che segnale arriva, quel radio? L'attualità radio, Giovanni, il typhoon, quel famoso typhoon di, boh, non so di quanti anni fa, e il microfono, l'MV+4, sempre la stessa radio c'ho io. Va benissimo, certo, più bella di così, cosa vuoi, poi è bella chiara, forse, ma è chiara, capito? Come solito. Va bene così, va bene, va bene. Così è to. Eia, è così. Se no andiamo male, andiamo. Attenzione, signor Bacchisio. No, non da davva. Va bene. Riprenderà Luca. Mi ho messo la rischia adesso, il computer. Sta avviando a Windows. Allora come volta che monettina. Ma l'hai messo a posto? Sì. Non avviavo, era bloccato. L'ho installato di nuovo Windows. Ma sicuramente era con Windows XP prima. Certo. Mi avrei buttato Windows 7. Quello leggero gli ho messo, quello start. Andare. Va benissimo. Eia, meglio Maria, non ti ho mangiato la pecora, ti hai mangiato. Buona, ma bollito o arrosto? Oh, bollita, allora. Bollita. Siamo scesi presto stamattina. Abbiamo messo tutto. Quasi le 11 erai già pronta, però assaggia che t'assaggia. Allora mangiano di avere più gara, che aveva mangiato. A che gusto che fai? E allora? Erami tre cusinetti, così che un po' andava uno e assaggiare, un po' andava l'altro, e così mi ha messo io non avevo più gana, ragazzi, ehi, una ira, poi era bene, ragazzi, e mamma, abbiamo fatto anche gli gnocchi con brodo, domani facciamo gli spaghetti, domani a pranzo. Andare allora. C'è rimasto un bel carri ancora, quindi non è rimasto un mega stramaglio tra questa gara. Infatti domani, ma cubane mangiamo domani, carri e la pasta, boh! Andiamo. Patate, carote e cipolle, certo, e carne, cosa vuoi di più so? Oi, chiatta, viene a bari bocche, viene a rimanere, c'è che se la mani, oia, forse riusciamo domani a mangiatina, boh. Gli azzecci, ci vengono, ci vengono appetito gli azzecci. Ah, via, domani abbiamo la sacchetta di rebo, così che avevo dei bulli per forza, domani abbiamo dei bulli per forza. Oia, se ne abbiamo bucato, anche io ci avevo mangiato un troppo, cazzo. E che la più gana, c'ho che copie ancora. Infatti. È così che capita, purtroppo. Anda. Luca! Sì, aiuto Lucani, vicino a me. ci voleva coccolata. E tu coccolata l'hai? Allora, con la retta. Vieni Luna, saluta la dottor Maria, vieni dottore, vieni, salutami, vieni. Non vi vuoi la dita, non altri no. Hai preso Gian Maria Ghiciu. Ah, aspetta un attimino, riprendi to. Sento subito che hanno bussato. E quindi Luca, te l'hai messo a posto? Sì, l'ho messo a posto. Sì. Sì, sì, 19, 31, 20, 10, 2018. Ah, sono scaricare i driver. Driver, poi antivirus. Capito mia, ma però. Luca! Sì, atto. Sì, mi sono sentato che era al telefono. Sì, tu sai che sei dormito. Eh? Ha detto, sicuramente Tone si è dormito. No, certo ha dormito io. No, ero al telefono, era. Ho lasciato a mia moglie adesso. Gian Maria, è rientrato. No, allora l'ho fatto un salto di là. A dopo. Alla fidocci. Abiti a cosa? E noi già andiamo, mi escono un po', vado. Finisco qua, alle 8 vado via, dai. Come arrivo mi lavo, mi cambio e poi ceniamo e poi usciamo. Ehi, andavi andando. Ah, chissà se entra Bacchisio, boh. Ma che Bacchisio è dormito. Oh, deve essere che ci ha messo la macchina e si è trattenendo. Ho capito, ci ha messo? Che ci metteva la macchina in garage, non so se l'hanno trattenuto, boh. Ah, ecco. Si è rientrato quasi alle 8 meno 5. I tempi sono quelli che sono, via. Boh, aspetta a vedere. Attenzione, Bacchisio, andata va. Dormito, sì. Ha detto che non ti rispondi. Mi sa, se è dormito risponderò. Andiamo, andiamo. Quanto una volta, un bel po' di anni fa. Mi ero un tipo, bussa la porta di casa. E gli fa, mamma, se a te Luca c'è, altro che dormito. Ha detto che è dormito. Sbagliati che non verrà nulla. Mica, cioè se vieni via, gatto che ha dormito, si è suicidato, non si può dormire, no. Lui ha dormito. Dormito, sì. Bubu. Lascia ma accorti, per carità. Per carità, per carità. Vabbè. Chissà, Bubu. Chissà se arriverà. Speriamo. La nebbia. Sì. Arriva di vedere che sono castigato, se piccolo c'è entrato, ma se siamo andati, niente, se prima te si cose, dici. Ma è educata, Fagi. No, arriva di vedere. Non mi piace, ma che cose. Ma c'è sempre le stesse cose, va. Cosa può fare altro? Siccome può fare, se puoi impiccarsi. Ti andaggio lì, ho fatto un altro computer e un televisore da punzare. Porta a punto, tutte e due. Il televisore lo devo portare, praticamente si sente l'audio ma non si vede. E sono i LED da cambiare. Ma del televisore tipo vecchio? No, schermo piatto. Invece quelli devi cambiare la scheda. No. I LED sotto, la stacca dei LED, cambi quella, vai tranquillo, ne ho riparato più di uno. Ah, quelle a LED sono, le cambi la scheda dei LED? Sì, la striscetta. I LED non puoi cambiare perché sono talmente messi, sono fatti a macchinario quelli, capito? Sono andati, non ce la fai. Volendo ce la puoi anche fare, ma solo che non conviene, dai. E quindi cambiando in una striscia funziona. Allora, prima cosa che devo fare è sganciare, dato che vedo che il LED è bruciato, sganciare quella striscia lì, unisco, faccio un ponte da un filo all'altro, dal filo che ne stacco dalla striscia dei LED, per vedere se accendono gli altri prima, perché se gli altri ne accendono, devo capire chi è interrotto, perché molte volte mai si vede il LED bruciato, basta che ci bruciano un LED e si spengono tutti, eh. Oh, infatti, il LED non mi convince una sei a me. Quello che ho io è al plasma invece, io ho un Panasonic 32 pollici, schermo piatto, ed è un bombo. Io mi ho questo qua, Samsung LCD, che c'era l'assicurazione, c'era, si cambiava i canali da solo, si cambiava. L'ho portato a aggiustare, anticipato io e poi mi hanno durato di là. Hai visto? E cos'è il problema? Si cambiava i canali da solo? Ah, si cambiava i canali da solo, si cambiava. E cos'era il problema? La scheda mi hanno giambato. A te è il primo, facciamo la scheda, no? Ah? No, intanto l'ho portato da Franco Enna, se ce l'aveva lui, quel coso lì. E ma dico, aspetta, le volevo la candela per cambiare questa cosa? Ah sì, se me l'hanno durato di denaro. Cacca, era 147 euro, e 147 euro mi hanno durato. Ma andiamo a bene, dai, a voi. Molte volte non le vale la candela, ho capito, anche se questo qua per esempio è fiammante, questo televisore qua è nuovo, l'ho acceso, praticamente esce, da quanto ho capito ha preso un colpo, no? Ai cristalli liquidi, e c'è una striscettina fine che si vede, ma si vede comunque, non è manco fastidioso. Comunque io un pannello ce l'ho, LCD, se va bene domani glielo cambio, è venuto a guio qui, poi per carità di parlare l'altro, io ce l'ho già, uso quelli LED che ho, che ho comprato da un altro televisore. Non è così, ma giù, no, uno al plasma, poi ne ho altre due, un altro LCD, un altro minore e di tuo Samsung. No, non è con i televisori vai. Uno in sala, uno in soggiorno, uno qua in camera, uno in camera mia piccolino e uno in cucina. Avete un negozio, vedi? In cucina c'ho dall'ultima generazione, un 32 pollici a LED. Questo che mi hanno dato, mio fratello è a LED, 32. Ed è nuovo, abbastanza nuovo qua. L'unica pecca che ha è che questa striscettina del display si vede. Vabbè, va giù nulla. Aspetta un attimino. Vai, tranquillo. Luca! Ehi, atto, sempre qua sono. Ah, non sei dormito, no? No, io vado a dormire io adesso, stanotte. Ehi, aspetta che sei entrato... Bacchisio, non c'è nulla da fare. Adesso mercoledì c'ho, no, giovedì c'ho la revisione al carrello. Il carrello qua, del gommone? L'ho messo tutto, l'ho messo a posto. Ieri ho fatto, collegato i freni e tutto quanto. Ma già attento chi frena. Ma te lo devi vendere, no? E a gennaio lo metto in vendita. Non lo usi più? E lo metto in vendita a gennaio, lo metto in vendita e cosa? Adesso me la adopero a novembre. Guardo se vi ridisce i cibi. Infatti. Poi se una cosa non si usa meglio venderla a to. È bello comunque avere un gommoncino, non un grande, uno piccolino. Per esempio uno per me, uno per due persone, dai, tre, non di più. E poi ci sta fatto un giretto così, così, un giretto e poi anche di quelli che puoi sgonfiare, molto di piccolino. Quelli mettere sulla cappotta. Sì, anche di quelli, no vabbè, di quelli sgonfiabili anche. Ti ho visto questo tipo qualche anno fa con questa sacca grande e ci ha messo questo gommoncino dentro, sarà gonfiato, bello mi. Due tranquillamente ci stavano, forse anche tre. E quando si è gonfiato ci ha messo tutta la roba da pesca e con il reme ci è uscito lontano. Con il reme, senza motore. E allora? Cacca, bebbo. Andiamo dove andiamo. Non il reme non si esce mai fuori. Ah, cioè da voi non riesci più a rientrare. Cosa to? E con il remi poi non riesci più a rientrare se si alza a vento. Lo so, un motorino piccolino da c'è? No, ci vuole cavalli, boh. Ma lo devi assicurare poi. Anche di quelli piccolini, no. Ma che non devi dire che ti manni. Io non lo convengo, certo. A meno che non te ne buone un elettrico. Ma elettrico lascia il tempo che trova. Che le usano anche per i fiumi, lo usano per pescare. Luca me l'aveva prestato, l'acqua a scooter elettrico. Sì, è un po' lentino, ma tiene un po' male i brazzi, E mi è durato, un paio d'ore. Un paio d'ore sì, però va lento, va. Così non si fa nulla. Te li fai i muscoli con quello, Poi ho provato quello a scoppio. Sì, tira, ma non è che ti devi subire tanto, no. Così, dai. Già ti diverti, ma non è che... È un bel letto, capito? E poi, se c'è mare, più Eva che altro. Infatti a Coso siamo andati a... Stintino. A cosa? Estimano mi pare, sì. E l'ho usato lì, e diciamo che qualche litro d'acqua me lo sono bevuto, vuol dire che non sapevi usarlo bene. Ah, che c'era un po' di... il mare era un po' così, un po' agitato. Infatti, quando c'è acqua e cose che c'è mare... ti tenta a bere. Infatti. Sarebbe molto più potente. Comunque già tira lo stesso, dai. Tira anche due persone. Infatti c'è questo... una corda. Ho fatto guidare alla mia ragazza e mi sono attaccato a questa corda e mi tirava. Però il mare deve essere calmo per andare bene. Perché c'è un po' di onde. C'è tra la bevi l'acqua. Infatti. No, almeno lo scooter così no, non mi è mai piaciuto averne. Io mi facevo i giri così, con le pinne. E giravo così. Vabbè, tanto pare sì, io vado. Faccio una nuotata, ma non vado oltre, non mi interessa, giusto a rinfrescarti. E poi me ne esco, capito? Io tanti anni fa entravo presto, inizio adagio, 5, 6 ore, 7 ore di pesca. Picchia! Allora scendi anche in metri? Scendevo una volta, ma si farà un metro e pizza e truffo. E allora ci vuole un mezzo metro quadro. No, infatti se devo riniziare, ho la muta nuova, ho messo una muta giù. Se devo riniziare devo fare tutto da capo. Ti credo. No, guarda, al mare bisogna andare lì. Io ho avuto brutte esperienze, capito? E allora non mi interessa, vado al mare, sì, faccio il bagno, posso stare anche ore e ore, ma sempre lì, ad altezza uomo. No, io prima scendevo e pescavo, ma va, ci farò un paio di metri, finché tu. Vabbè, tu fai un paio di metri, io mi accuisci un varo, farò mezzo metro, finché tu. Ci devo riprovare a vedere. Devo riprovare, ci predisco, se no lì non mi vendo l'attrezzatura. Ma cioè, prima scendevi quanti metri tu? Io? Io guarda, quei 15, 16 metri me li facevo buoni buoni, 17 qualche volta. Qualche volta 20 metri buro, però non sempre. Cazzo, mamma mia. Mamma i dulci. Ma paravo a pigliare, qualche volta, quando paravo, scendevo dove c'erano le tane per prenderlo. Ah, invece, ma qui ci riesci a fare? No, non riesci a farlo. Oh, ma cosa? Se ci provo, scendo a un metro, risalgo, scendo due metri, risalgo, piano piano riesco a scendere magari a 5 metri, ma non di più. No, io non lo fa per me, non è cosa per me, sono sincero. Ma io lo facevo prima. prima mi scendevo sul fondo, mi calavo sul fondo, mi calavo e facevo, aspettavo che uscisse la preda e mi rubicavo e pezzi grossi. Ma vanno per più nulla, troppa crisi c'è, non c'è lavoro, la gente va a pescare, ma io conosco pescatori, mi hanno detto che non c'è niente. E prima uscivo anche con degli amici, uscivamo e ne arrivavamo in Bescio, ma prima veniva tanti anni fa, veniva di Bescio, la volta lo devi zicare proprio. Lo so. Non c'è, infatti l'altro giorno ho visto questo ragazzo che conosco, c'aveva un bel po' di pesci, c'aveva saghi reali, un po' di polpi, l'ho visto che se l'ha messo tutto in una busta e se l'ha venduto, e purtroppo non lavora e campa da lì, anche una famiglia, dei figli. Ma prima facevi di tutto, tanti anni fa facevi di tutto, canolicchi facevi. Anche le ostriche mi facevo allora, ma mi va vedo di 40 anni fa. Io mi ricordo mio zio stesso, quando ero piccolino che mi portava al mare, anche lui scendeva, ci avevamo fatto sai che cosa? Che non so come ti vado a ripirare, una pompa rosso lunga 4-5 metri, attaccata alla boia e respiravo dalla pompa. Quando scendevo tranquillo. E ne cavavo, e pezzi grossi da 30 raddana ne cavavo. E qualche volta qualche dentice, qualche volta qualche ricciola. E un sacco saraghi hanno finito, però vera rovescia allora. Vabbè, prima andiamo via. Guarda che stasera ho visto, aspettami. Vediamo un po'. Sai che sono dentici quelli, grandi anche, alla fera, ecco qua, Cristian, vediamo, allora, ho visto che ha messo dei bei pezzi, cavolo, ci sono tre dentici, uno ratta, grandi dentici, saranno minimo da 2-3 kg l'uno, uno ratta, sembrano 2-3 calamari, anche belli. Tre dentici, un colorata da un chiletto e 3-4 calamari. Ma in barca quello ho prendevo. Penso di sì, a traina. Comunque ho la canna alla pesca. I calamari sono in barca, li puoi prendere. All'imbrunire calamari. Non lo so, comunque gli ha visto la foto. Sicuramente ne sono usciti all'imbrunire. Sì, quello me lo facevo con la canna da pesca all'imbrunire. All'entrata del porto. Ma tanto mi bigliavi. Prima sì. Io non lo so, io qualche volta ce l'ho presa lì, me la prendevo però. Prima sì. Prima era un bel da va. Ah va invece. Se devi uscire un pochetto lontano va a partire. E pesce quindi non venne quasi nulla. Riuscì lontano, infatti guarda come quello scende un paio di metri di profondità, anche 15, è giovane, vabbè, un ragazzo giovane, mica la persona grande, è coraggioso, scende un paio di metri, una volta che scende esce lo trova il pesce. E infatti devi fare a pigliarlo, devi scendere. Ormai non è più come te prima, è pure a 5 metri acciappavi invece, invece acciappi più nulla, è tutto vero. Infatti, bisogna andare mai nei posti dove c'è, tipo lì dalla Laginara e chi via quindi è pesce, uno due ne andati sequestrato, facciamo la testatura, via. Infatti, io ti devo lasciare. Mi sono Ciamelli e ti devo lasciare. Andà bene, Luca, ci sentiamo magari domani se tutto va bene. Ok, ciao Luca, se sentiamo Gian Maria salutamelo. Sì, atto, dai, mi hai anticipato, anche io vado via adesso, dai. Che vado a mangiare. prossima, buona cena a te, ciao. Ok, ciao Luca. Ciao a Cagio Maria, ciao.